Io che non andavo a scuola, mamma mi chiamava, mi diceva che fai, entro in seconda ora, ma poi non entravo tra mille pensieri, quindi sbuffo marijuana, quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no, parli e dico ok, ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, mamma già sapeva da ma va che parla e mi prendo una sbroccata, Dino non c'entravo, ho lasciato stare quando ho visto una puttana, quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no, parli e dico ok, ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, Sempre all'ultimo banco, le formule non le so, non puoi dirmi di no, non distrarmi se poi quando parlo ti voto, troppo easy, mille grazie, troppi finti come va, vaffanculo, dimmi ora che ti serve, che godo a dirti no, come sto, non lo so e se lo so, dove vengo a dire a te che parli dietro come no, dico po, non ci sta, se ci sta, con quelli come te io resto freddo, non ti chiamo a te parto e non mi inculo nessuno, la testa mi esplode, il ciel pure, Io che non andavo a scuola, mamma mi chiamava, mi diceva che fai, entro in seconda ora, ma poi non entravo tra mille pensieri, quindi sbuffo marijuana, quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no, parli e dico ok, ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, mamma già sapeva da ma poche parte se mi prendo una sbroccata, Dino non c'entravo, ho lasciato stare quando ho visto una puttana, quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no, parli e dico ok, ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, Bro, ma aspetta un istante, ma di cosa stai parlando? Per essere tuo amico devo vestirmi così, ma proprio col cazzo, guarda proprio tasso, non mi cazzo. Sorrido, non ti cago, non ti penso, grazie mamma che mi ha fatto un po' diverso. Bella trama, bella merda, se ci penso resto perso tra mille pensieri, E tu che mi dici come va? Non ti ascolto proprio, no, fra. Guarda dove sono senza te, fra. Io che non andavo a scuola, mamma mi chiamava, mi diceva che fai, entro in seconda ora, ma poi non entravo tra mille pensieri, quindi sbuffo marijuana, quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no, parli e dico ok, ma mi sentivo un po' sprecata a scuola, mamma già sapeva da ma va che parla, se mi prendo una sbroccata, Dino